Buongiorno a tutte e a tutti. Vi ringrazio di essere qua anche stasera a seguire questa diretta. La diretta, come ormai avviene regolarmente tutti i lunedì, va in onda, diciamo così, sulla pagina Facebook di 37.2, sulle due mie pagine, quella pubblica e quella privata, sulla pagina di Medicina Democratica e sulla pagina di Ponti di Memoria. Quindi una diffusione abbastanza ampia. Noi parleremo stasera del vaccino, parleremo anche però di altro, parleremo, scusate, c'è un'interferenza, ecco, parleremo del vaccino, parleremo dell'ICE, cioè dell'iniziativa dei cittadini europei, molto molto importante. Daremo una notizia clinica ancora tutta da valutare e poi avremo modo di ascoltare le vostre domande. Come avviene sempre, io vi invito a condividere questa diretta, perché alcune delle risposte che potrete trovare qui non sarà così semplice trovarle da altre parti. E anche perché, come dico sempre, mi scuso se continuo a ripeterlo, non siamo in grado di rispondere alle domande che ognuno di voi fa, quindi di rispondere direttamente. Da qui l'invito a condividere questo video, soprattutto perché quando parliamo di vaccini parliamo di qualcosa di molto, molto importante e molto, molto attuale. Noi ci eravamo lasciati settimana scorsa con analisi anche abbastanza critica di quello che stava accadendo. Avevamo sollevato dei problemi critici, precisando subito che non stavamo dicendo che siamo contro il vaccino, che il vaccino non arriverà, eccetera, ma che bisogna analizzare in modo preciso quello che sta avvenendo e come si svolgono gli studi. Bene, pochi giorni fa è uscito un articolo pubblicato sul British Medical Journal. Non è proprio una rivista qualunque, è una delle tre più importanti riviste in ambito medico-sanitario. E su questa rivista sanitaria c'è l'intervista a Peter Doshi, che è un professore dell'Università del Maryland, che si occupa da decenni di servizi sanitari farmaceutici. Sono uscite anche altre interviste, alcune però più problematiche, con dei punti di domanda rispetto al soggetto che parla, perché se parla e critica il vaccino l'ex presidente o vicepresidente di una di queste grandi aziende farmaceutiche, noi possiamo pensare che sia più facile, che esistano conflitti, questioni non risolte, eccetera. Qui invece siamo di fronte a un documento scientifico pubblicato su una delle principali riviste. E quali sono i problemi che solleva il British Medical Journal? Primo, manca una trasparenza complessiva sui dati, cioè si sa molto poco su come sono stati condotti questi trial e quindi si può sapere poco come funzionano. Seconda questione, fondamentale, non sono stati arruolati, non è stato arruolato un sufficiente numero di persone anziane, di persone fragili, di persone con patologie croniche. Aggiungo, non sono stati coinvolti un numero sufficiente di bambini, non sono state coinvolte le donne in gravidanza, non sono state coinvolte le persone immunodepresse. Allora, qui sorgono domande importanti, perché alcune di queste fasce di popolazione che io ho citato e che non sono state coinvolte o a sufficienza come numero, o non sono state coinvolte del tutto negli studi sperimentali sui vaccini, sono le prime fasce alle quali, dopo gli operatori sanitari, verrebbe somministrato, secondo tutti i piani nazionali, il vaccino. Ma se non sono state coinvolte la popolazione anziana, noi non sappiamo qual è l'efficacia in questa popolazione, non conosciamo i risultati. E questo è un punto di domanda molto molto grosso ed è il primo. Ma poi ce n'è un altro che invece riguarda tutti e che finora non è stato discusso dai mainstream, cioè tutti i media sono tutti lanciati a dire ah, avanti, avanti col vaccino, unica soluzione. Le cose sono più complicate. Per esempio, viene sollevato un'altra questione, e cioè quella degli effetti collaterali. Questi effetti collaterali che sono stati segnalati, che impatto hanno avuto? Qual è il loro livello di gravità? Alcuni di questi effetti collaterali corrispondono addirittura a una sintomatologia simil-Covid. Allora, questo ricercatore, questo scienziato si chiede: ma quegli effetti collaterali a chi ha preso il vaccino, siamo certi che non siano un risultato di un'infezione Covid non documentata? Cosa chiede? Chiede semplicemente di avere accesso ad altre informazioni sanitarie che a tutt'oggi non ci sono. E quindi questi sono punti di domanda in generale sui vaccini che si stanno sperimentando. Ma poi è arrivata anche un'altra notizia, questa volta sempre in questa settimana, questa volta mirata su il vaccino, quello di AstraZeneca, quello dell'Università di Oxford, quella con cui l'Italia stessa ha una collaborazione. Vi ricordate che settimana scorsa io vi ho detto che è un vaccino come gli altri che deve essere somministrato in due dosi, e quello che i ricercatori avevano documentato era un evento un po' strano, e cioè che se prendevi la prima dose intera del vaccino e la seconda dose a distanza di alcuni giorni aveva un'efficacia del 62% questo vaccino, e io su questo sono durissimo. Un vaccino con l'efficacia del 62% rischia di essere controproducente, perché il 38% delle persone pensa di essere protetto e non è protetto, e quindi abbassa la guardia, non sta attento ai comportamenti. Ma loro hanno detto: poi abbiamo provato a dare il vaccino prima a mezza dose, poi a dose intera, e l'efficacia è stata del 90%. Il problema è che è stato casuale, avevano sbagliato dose. Ma non sono in grado a tutt'oggi di spiegare perché con mezza dose prima e una dose intera dopo c'è un effetto maggiore di quello con due dosi. Cosa avviene nel nostro organismo? Non si sa. Questa cosa è stata criticata, attenti, dopo che hanno dato ulteriori informazioni che non sono ancora pubblicate, in un incontro riservato con operatori finanziari. Ecco, cioè, qui non c'è bisogno di commenti, e vedremo andando avanti oggi che la cosa è ancora più problematica. Gli stati che pagano non hanno le informazioni. Gli stati che pagano non vedono i trial pubblicati e non sanno a quali popolazioni effettivamente possono dare il vaccino, chi è stato coinvolto. Però invece con gli operatori finanziari, siccome loro si giocano una partita sul grande mercato finanziario, allora fanno incontri riservati a cui forniscono questi dati. Una situazione veramente pesante e contraddittoria, e vi chiedo di condividere il video perché, per esempio, io ho notato che anche quando qualche giornale ha posto queste domande, però il titolo era tutto ottimismo. No, noi dobbiamo dare i dati così come sono, quindi per questo vi chiedo di condividere. La situazione dei punto di domanda sui vaccini e del ritardo dei vaccini, che cosa però sta producendo? Sta producendo sia a livello europeo sia a livello italiano che l'Unione Europea e l'Italia, tutte e due con i soldi pubblici, quindi con i nostri soldi, stanno acquistando una quantità immensa assolutamente di vaccini. Allora, noi abbiamo che a livello europeo sono stati prenotati oltre che 1 miliardo e 400 milioni di vaccini. In Italia sono state prenotate 200 milioni di dosi. Ok, ogni vaccino deve fare due dosi, quindi 100 milioni di dosi, ma noi siamo 60 milioni di abitanti. La popolazione europea non è 1 miliardo e 400 diviso 2, cioè 700 milioni, è molto meno. Allora, come mai? Perché? Perché nell'incertezza su quale vaccino arriverà prima, nell'incertezza di quale vaccino potrà essere efficace, si mettono come al mercato a comprare tutti. Non non è che gli viene in mente che possono provare a rispondere all'appello di Sudafrica e dell'India che hanno chiesto di andare all'Organizzazione Mondiale del Commercio, cambiare gli accordi sui brevetti, chiedere che non si faccia profitto, non che ci perdano, ma che non si facciano profitti esorbitanti, speculazioni finanziarie su questi vaccini. No, nulla di tutto questo ha fatto l'Europa, nulla di tutto questo hanno fatto i governi europei, compresi l'Italia, vanno a comprare. E così noi le stiamo girando da tutte le parti. Noi abbiamo comprato 27 milioni di dose della Pfizer, l'Europa 200 milioni, 40 milioni da AstraZeneca, 10 milioni da Moderna, 53 dalla Johnson Johnson, 40 milioni dalla Sanofi e 30 milioni dal CureVac. Ecco, questa è la situazione, altro che la sanità pubblica. Quindi mi sembra importante dare queste informazioni e vi do anche un'altra notizia. E passiamo al secondo punto che è strettamente legato. Notizia che ci sarà domani, mi auguro, su una parte dei media. Oggi abbiamo lanciato l'iniziativa dei cittadini europei Right to Cure, diritto alla cura, nessun profitto sulla pandemia. È una cosa molto seria e istituzionale. Allora, siamo una decina di persone, medici, ricercatori, universitari, attivisti, che hanno depositato, abbiamo depositato alla Commissione europea 2 mesi fa un testo, chiedendo se la raccolta di firme su questo testo riconosceva, stava dentro i parametri stabiliti dall'Unione Europea. L'Unione Europea ha detto sì e noi siamo partiti, abbiamo lanciato oggi questa campagna. Qual è l'obiettivo? Raccogliere 1 milione di firme valide online, quindi via web, in un anno, entro il 30 di novembre dell'anno 21. Se la raccogliamo prima, meglio. A quel punto depositiamo queste firme alla Commissione europea, le diamo alla Commissione europea, la quale è obbligata nel giro di pochi mesi a fare le seguenti cose. Prima, chiamarci per farci spiegare la nostra iniziativa. Secondo, avanzare delle proposte al Parlamento e al Consiglio che vadano nella direzione dell'iniziativa che noi proponiamo, che è quella di cercare di, se non sospendere, perché lo deve fare l'Organizzazione Mondiale del Commercio e non l'Unione Europea, ridurre al minimo l'uso dei brevetti all'interno dell'Unione Europea. Molte cose si possono fare, basta avere la volontà politica. Per questo è importante far sentire la pressione anche dei cittadini europei. Che cosa crediamo? Chiediamo, io adesso riprendo alcune delle proposte che noi facciamo. Primo, si può fare che l'Unione Europea utilizzi all'interno la licenza obbligatoria, cioè quel meccanismo degli accordi sulla proprietà intellettuale che danno la possibilità a un paese che è in pandemia e che non ha le condizioni economiche per pagare i prezzi che vogliono le multinazionali, e noi siamo tutti in pandemia, e siamo in difficoltà a inseguire le multinazionali sui prezzi che propongono loro. Un paese, in base già alle eccezioni previste in quegli accordi, avrebbe la possibilità di dire: produciamo direttamente il farmaco generico senza rispettare i brevetti. Questo si può fare. Finora i paesi europei non l'hanno voluto fare, finora la Commissione europea non l'ha voluto fare. È una possibilità. Seconda richiesta, che tutti quei vaccini, stiamo parlando anche di questi e del Covid, che vengono prodotti anche grazie a finanziamenti pubblici, ed è quello che sta avvenendo perché il preacquisto è un finanziamento, non possono assolutamente essere fonte di profitti privati. Terzo, che l'Europa non imponga i brevetti ai paesi poveri quando fa gli accordi commerciali, perché purtroppo fino ad oggi, quando fa un accordo commerciale anche su altre materie, molte volte impone a quei paesi poveri di non ricorrere alle eccezioni previste dagli accordi TRIPS. Il motivo è semplicissimo: la stragrande maggioranza delle aziende farmaceutiche che produce vaccini e delle aziende farmaceutiche in generale ha sedi in Europa e quindi l'Europa si muove in questo modo. E poi l'altra opzione possibilità che avrebbe l'Europa è quella di intervenire sull'Organizzazione Mondiale del Commercio a chiedere la modifica degli accordi TRIPS, cosa che non ha mai fatto. La notizia che vi do adesso, l'ho verificata un'ora prima della diretta, è purtroppo una notizia molto, molto negativa. Io dico una notizia indecente. Un parlamentare europeo con cui collaboro e che è l'ideatore di questa iniziativa dei cittadini europei per raccogliere le firme, è un parlamentare europeo. Dimenticavo di dire chi c'è nel comitato promotore nazionale. Io ho proposto e hanno accettato nel comitato promotore nazionale c'è Gino Strada, Riccardo Petrella, Don Luigi Ciotti, Silvio Garattini, Maria Bonafede, che è una pastora valdese, e poi gli attivisti sociali Marco Bersani, Monica De Sisto, Raffaella Bolini e Roberto Morea. E poi la partecipazione straordinaria di uno degli oncologi più famosi del mondo, Franco Cavalli, è svizzero, ma sarà invitato a questo comitato. E stiamo lanciando l'appello a tutte le associazioni, sindacati, chiunque vuole di aderire al comitato, questi sono i promotori, c'è già stata l'adesione anche di Mimmo Lucano, perché raccogliere 180.000 firme, dobbiamo raccogliere come minimo in Italia 1 milione a livello europeo, non è cosa semplice. Ma Mark Bottenga mi ha comunicato un'ora fa questa notizia. Ha fatto un'interpellanza, per favore condividete il video, alla Commissione europea, chiedendo: ma è vero che l'Unione europea si è impegnata a formare un fondo economico col quale risarcire coloro che dovessero avere conseguenze profondamente negative dall'uso dei vaccini? E la Commissione europea ha risposto: è vero, non in generale su tutti gli effetti collaterali o i disagi provocati dai vaccini, ma se si verificano alcune situazioni particolari. Ma non ha rivelato queste condizioni particolari perché sono segretate in un accordo tra Unione Europea e Big Pharma e aziende farmaceutiche. E questa è una cosa che non possiamo accettare, perché sta finanziando la campagna, la produzione con soldi nostri, sta preacquistando con soldi nostri. Non è mai avvenuto in nessun paese del mondo, mai nella storia della medicina, che chi produce un farmaco, un vaccino, dica: ci ha autorizzato a metterlo sul mercato, poi se succede qualcosa risarcite voi. L'Unione Europea accetta di discutere questa cosa, ovviamente col consenso dei paesi, perché sennò non l'avrebbe fatto, accetta di dire: alcuni degli effetti gravi che dovessero manifestarsi li risarciremo noi, ma non diciamo quali perché secretiamo l'accordo. Questa è veramente una cosa che grida vendetta. Ecco allora che è ancora più importante firmare questa. Ci abbiamo messo, stiamo mettendo sulle varie pagine Facebook la campagna che si chiama No Profit for Pandemic, cioè non profitti sulla pandemia. Il sito è noprofitonpandemic.eu. Ci mettete 1 minuto a firmare, basta avere la carta d'identità. C'è anche la pagina Facebook Right to Cure, Right to col numero 2, cure.it, è la pagina Facebook della campagna, che è estremamente importante. Scusate se mi sono dilungato, ma queste cose non si trovano, non si leggono e sono invece cose purtroppo importanti. Prima di darvi la parola per vedere le domande che sono arrivate e che Cora Aranci, come al solito, sta raccogliendo, io passo a un altro tema. Non è apparso sui media, è una notizia apparsa in ambito medico, ma mi sembra interessante. E cioè, uno studio, quindi siamo per ora a uno studio, che è appena stato pubblicato sulla rivista internazionale Annals of Emergency Medicine, cioè gli annuali della medicina d'emergenza. Uno studio dell'ospedale Molinette di Torino ci dice che un'ecografia del polmone potrebbe diagnosticare già una polmonite da Covid-19 in corso. E questa è una cosa importante. E dice, in questo studio sono stati arruolati 228 pazienti con sintomi suggestivi per Covid-19. Di questi, 107 sono stati diagnosticati come affetti da polmonite da Covid in seguito alla positività di tampone. Ma aver aggiunto l'ecografia al tampone ha permesso di identificare altri 21 casi di polmonite da Covid, i quali erano stati erroneamente catalogati come negativi in base al risultato del primo tampone. Che cosa ci dice questa ricerca? È una ricerca, però è stata pubblicata e quindi significa che ha passato l'analisi dei referì della rivista scientifica. Due cose ci dice. Primo, una cosa che già sappiamo, e cioè che i tamponi non sono precisi, possono avere una quota di falsi positivi e una quota di falsi negativi. Poi ci dice un'altra cosa, che disponiamo di un esame tutto sommato semplice, come un'ecografia del polmone che può essere fatta anche un pronto soccorso e che permette di arrivare a fare diagnosi di Covid e anche di fare una diagnosi lì dove il tampone invece ha dato un risultato errato. È un ennesimo passo avanti in ambito medico. Passiamo alle vostre domande, però prima non vorrei dimenticare una cosa da dire. Siamo alla fase 3 dei vaccini. Non dimentichiamoci che prima che possano entrare in commercio devono essere valutati dall'FDA negli Stati Uniti e dall'AIFA, due organismi scientifici indipendenti e autonomi, ma che non hanno fondi propri per poter fare ricerche. Quindi la loro valutazione si baserà su un'analisi critica e attenta della documentazione presentata dalle aziende farmaceutiche. Bisogna che finisca questa pressione mediatico-politica. Tutti vogliamo avere il vaccino, sappiamo che non sarà la soluzione di tutti, sappiamo che se quando arriverà avrà tempi lunghi di distribuzione, quindi non cancella tutto il resto che è necessario, i comportamenti, la ricerca di farmaci e via dicendo, ma però è anche importante che la ricerca vada avanti, ma con i tempi e i criteri corretti. Vediamo le domande e poi eventualmente aggiungo altre notizie che sono importanti e che sono anche molto molto recenti. Vediamo la domanda: chi è guarito dal Covid, sintomatico o meno, deve fare lo stesso il vaccino? E se sì, perché? Non lo sappiamo. È una domanda intelligente. Allora, uno che è guarito dal Covid dovrebbe avere gli anticorpi, ma noi non sappiamo quanto durano quegli anticorpi. Per ora nessuno sa, perché non c'è pubblicazione, se una persona che ha sviluppato gli anticorpi, il vaccino rafforza lo sviluppo di anticorpi perché provoca un'ulteriore stimolazione di anticorpi nell'organismo, oppure no, crea un conflitto, crea una risposta immunitaria troppo grande, cioè troppo elevata, con degli elementi contraddittori. Non lo sappiamo, ma vedete, anche solo in questa diretta, che vengono fuori domande che necessitano di risposta. Io non so come ha fatto qualche personaggio pubblico conosciuto a cui danno immediatamente accesso alla televisione, andare a dire l'altra sera con sicurezza: arriva il vaccino, facciamo tutto. È complicata la questione. Andiamo a vedere se altre domande. Prenotare vaccini significa poi pagarli a tutte le case farmaceutiche alle quali l'Italia li ha prenotate, anche senza garanzie sul loro funzionamento? Beh, certo, sono finanziamenti, diciamo, che se ne vanno, persi, che servono sostanzialmente per aiutare queste aziende a produrli, avendone prenotato una quota, per paura, dentro una logica di concorrenza e non di alleanza per piegare le multinazionali, dentro una logica di concorrenza tra stati, per paura di rimanere senza quei vaccini. E le aziende farmaceutiche stanno lì a vedere gli stati che litigano uno con l'altra. Ci sono ancora persone a casa senza cure adeguate da parte dei medici, persone che non sono aiutate. Sì, questo purtroppo lo sappiamo, e sappiamo anche che, nonostante tutte le notizie sul fatto che la situazione migliori, gli ospedali sono ancora in una situazione veramente molto molto pesante. È ufficiale che la regione Lombardia non effettui tamponi di controllo? Sì, è ufficiale. I tamponi di controllo la regione Lombardia non li effettua. Questo è un problema per tutti coloro che devono tornare al lavoro. Ripeto, si può tornare al lavoro o dopo 10 giorni col tampone negativo, 10 giorni asintomatici, 10 giorni, parlo dei contatti, 10 giorni asintomatici col tampone negativo oppure dopo 14 giorni senza eseguire il tampone, sempre asintomatici. Se una persona è stata positiva, allora deve lasciar trascorrere 21 giorni e poi, anche se è positiva, può tornare al lavoro perché si ritiene che non abbia una carica virale sufficiente per essere trasmessa, ma l'ultima settimana di quei 21 giorni deve averli trascorsi in modo asintomatico. Queste procedure, l'abbiamo detto tante volte, creano molti problemi in ambiente di lavoro. Allora, scusa Vittorio, puoi ripetere per favore i riferimenti della campagna? Sì, allora la campagna si chiama, il sito è noprofitonpandemic.eu e la pagina Facebook è ReadyToCure col 2.it, che è la versione italiana. Andiamo a vedere se ci sono altre domande. Come possono stabilire che immunità dà il vaccino se non conoscono le caratteristiche dell'immunità naturale? E queste domande io non so rispondere. Vedremo che cosa hanno pubblicato. Devono pubblicare sulle riviste scientifiche prima di poter andare a metterle sul commercio, questi farmaci. Io mi auguro che l'EMA e l'FDA facciano il loro lavoro e che nessuno si faccia travolgere dalla spinta dell'entusiasmo di avere i vaccini immediatamente. Dico anche che se dovessero arrivare dei vaccini che poi non funzionano, beh, alla fine si finisce semplicemente per alimentare la campagna dei Novax, di quelli che non vogliono mai vaccini, eccetera, eccetera, mentre i vaccini nella storia della medicina sono importanti. E a proposito della storia della medicina, c'è una informazione importante che mi sembra utile dare. Non è sempre andato così tutta la questione dei vaccini. Noi non dimentichiamoci che Salk, quando produsse il vaccino per l'antipolio, lo mise disponibile per l'umanità intera sul mercato, senza rivendicare assolutamente nessun brevetto. Intanto che Cora guarda se sono arrivate posta altre domande, io voglio darvi un'altra informazione che è venuta fuori da questo incontro a livello europeo che ho appena concluso. Allora, voi sapete che c'è un farmaco per la fase avanzata del Covid che si chiama Remdesivir. Inizialmente sembrava molto efficace, sono uscite alcune pubblicazioni che hanno detto che non è così efficace come sembra. Ma il problema che io affronto stasera è un altro. La Commissione europea ha trattato l'acquisto del Remdesivir a 2100 dollari, perché ha trattato in questo modo, per trattamento. L'Ucraina ha avuto lo stesso trattamento a 120 dollari. Allora è legittimo da parte nostra chiederci: ma quelli che per la Commissione europea trattano con Big Pharma fanno gli interessi dei cittadini o fanno invece altri tipi di interesse? Questo è un esempio preciso. Vediamo un'altra domanda. Il rientro in comunità dopo 21 giorni e senza di sintomi negli ultimi 10 giorni è consentito anche per gli studenti e personale scolastico? Sì, attenzione però, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di persone positive, cioè le persone che non si sono mai infettate, i contatti, senza tampone tornano dopo 14 giorni di asintomaticità, non si sono mai infettate. La regola dei 21 giorni vale per il lavoro, vale per la scuola, vale per la vita sociale, ma per coloro che si sono infettati, cioè trascorsi 21 giorni dal giorno in cui è stato fatto il tampone, dal giorno in cui è stato fatto il tampone, da quel momento 21 giorni anche se sei ancora positivo, ma hai fatto 7 giorni senza sintomi, puoi tornare al lavoro. Poi mi hanno consigliato di avere in casa, nel caso di bisogno, una cardiospirina, cortisone e parina. Sì, può essere un consiglio utile, ma non devi prenderla da solo. Deve esserci un medico che ti segue nella terapia, perché quei farmaci possono essere utili, ma ognuno, importante questo, sono appena uscite le linee guida per i medici di famiglia, in una fase diversa eventualmente della sintomatologia. Quindi, se te li metti a casa, vabbè, è una precauzione, altrimenti te li vai a comprare. Evitiamo di andare a fare incetta di questi farmaci, che poi a chi serve non li trova perché va in farmacia e ne hanno preso altri. E comunque devono essere presi sotto la guida e l'indicazione di un medico. Se sei positivo al sierologico, dopo quanto tempo consigli di rifare il test? Allora, in base a un documento di un ascoltatore che mi ha inviato i suoi documenti, potrebbe già essere utile rifare il test sierologico dopo 3 mesi per vedere se nel primo però test sierologico è stata misurata anche la quantità e che tipo di anticorpi avevi. Se ci sono questi due dati, può essere utile dopo 3 mesi andare a vedere se hai ancora gli anticorpi, penso di sì, ma in quale quantità. Finora ci sono risultati diversi, ci sono coloro che in 3 mesi hanno avuto una forte diminuzione di anticorpi e ci sono altri invece che non hanno avuto una forte diminuzione di anticorpi. Però, nella situazione attuale, hai fatto il Covid, sei guarito, hai prodotto gli anticorpi, aspetta andare a rifare un test sierologico perché vai a ingolfare un sistema che è già estremamente ingolfato. Io vi chiedo sempre di condividere adesso quando terminate, perché appunto poi non posso rispondere a tutti quelli che hanno fatto le domande. Una domanda sulla campagna europea: ho cercato di firmare, come faccio a sapere se è andata a buon fine? Dopo che hai firmato, si è inserito il documento, sulla destra dello schermo appare una striscia con un numero molto complicato e ti dice quella è la sigla che corrisponde alla tua firma. Come vedi, questi numeri delle Lombardie in netto cale, non è sospetto che avvengano proprio prima di Natale? Possiamo fidarci? Non ho una risposta, posso solo dire due cose. Primo, mi auguro che questi siano numeri reali e che indichino un assestamento e una diminuzione della curva. Due, se però la domanda che mi fate è: possiamo fidarci in generale di chi gestisce la Lombardia, cioè di Fontana e Gallera? La mia risposta è: non chiedetemelo neanche, perché dopo tutto quello che è accaduto, io non credo proprio che ci si possa fidare. E devo dire che la forza con cui Fontana ha chiesto il passaggio in zona arancione è una forza che deriva dalle pressioni di Confindustria. Dopodiché, tutti noi vogliamo essere in zona arancione, tutti noi siamo contenti di avere maggior libertà, però mi raccomando, il meccanismo è mantenere le precauzioni, stare attenti sui mezzi pubblici, perché avrebbero dovuto raddoppiare i mezzi pubblici, avrebbero dovuto acquistare o almeno requisire i pullman che non vengono utilizzati. Non l'hanno fatto, dobbiamo evitare che questa riapertura aumenti i contagi. Fiducia nella Regione Lombardia, l'ho già detto in modo chiaro, non ne ho. Io vi ringrazio per l'attenzione che avete dato. C'è un'ultima domanda che dice: consigli di donare il sangue? Beh, non so a chi si riferisce. In generale, donare il sangue è sempre una cosa utile e necessaria. Quindi, chi sta bene, chi è in buona salute, donare il sangue serve, perché di sangue c'è sempre bisogno, ovviamente di chi sta bene. Vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro buona serata e vi ricordo che giovedì avremo 37,2. Purtroppo con due inchieste che non anticipiamo oggi, una sicuramente andrà in onda questa settimana, sulla quale sta lavorando Cora Aranci, e vedremo cos'altro abbiamo scoperto purtroppo in questa sanità pubblica che diventa sempre più privata. Ma per correttezza non anticipo nulla, 37,2 giovedì 10:35 su Radio Popolare. Fate girare il video e vi ringrazio moltissimo. Buona serata a tutte e a tutti.